hai capito dove devi scendere. Dalla montagna scendi giù a coso, a Bacoglia. In quel bar dove ci siamo messi l'altra volta, giù a Pedalienda, a Carica, là, diciamo. Ehi. Va bene. Questa si deve rimanere poco forte, no, bici. Ciu. KK, 9, quasi 9 più 30, Franco. Tanto non ce la fai, Sei 9,25 agganciato. La Marina 9,20. E anche tu, Claudio, 9,20 qui a casa mia, 9,20, Claudio. Ok, così ne approfitto, dai, mi stanno chiamando, ho arrivato un messaggio. Ciao, Claudio, ci sentiamo la settimana. Ciao, Fra. Ciao, tu, alla prossima, quelli di per me, riprendi, Anto. Capo, ciao, Mari. Ci sentiamo alle prossimine. Avanti, Claudio. Ciao, Giavarino, buonasera a tutti. Io sto per entrare a salutarvi, no? Non mi trattengo che qua si protrace. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Ah, ho acceso la radio giusto a fare una chiacchierata, che c'era qualcuno. Ciao Marino, buon QRT, buon tutto. Vai qua. Va bene. Già salutato. Io se vuoi va. Si tramarca. Siamo documenti, è una base, no? Lì c'è pace, sì. Certo, non c'è da rompere palle del condominio. Stamattina ci abbiamo fatto un lavoro con il mio vicino, io ho chiuso le finestre del Calverio, c'era troppa corrente, sono andato a prendere il policarbonato giù a Rabrico, abbiamo chiuso, abbiamo messo fuori di policarbonato, così rimane pulito e ordinato, poi piovato, farò le finestre, adesso già va bene così. KK, vai Antonio. Bisogna fare i travagli, piano piano, bisogna metterli a posto. Tanto ti stavo dicendo, la modulazione io arrivo magari più forte perché sono molto più alto di te, capito? La mia posizione è diversa dalla tua. Lo so, ma 9,25 noi buccia di giocano. Noi buccia di giocano, tu. Non arrivi di ciucci, il segnale è uno dei segnali più alti. Se tu, Antonello, Pomponio, Roberto Quadrato, Franco California, gli altri sono molto più bassi, quindi. E ti ripeto, ti ribadisco che io non sono vicino, non sono vicino a te. Sembro vicino, ma non sono vicino io, ok? E poi sono nella vallata, capito? Molto aperto come altezza e molto più alto di davvero, come altitudine dal livello del mare, però sono un po' più coperto, ma ti difendi molto bene. Anzi, niente da dire qua, c'è un buon segnale, niente da dire proprio, cavolo, comunque arrivare così tanto da te non è male, vabbè io adesso sono attaccato, è la verità, sto facendo andare un pochettino, adesso dici tu, mi attacco l'altro, perché Ciccio mi ha dato un fatto andare a Furuvizio. Lo sanno in pochi dove sono, poi con calma te lo dirò dove sono, vabbè, però lo sanno in pochi. Va bene, dai, io vi saluto che mi ha chiamato mia moglie, è pronta la cena. Ciao Antonio, ciao Franco, e ci sentiamo alle prossime, dai. Buon fine serata a tutti, ciao. Claudio, buona serata, buon tutto, buon carica batteria, saluta il cuore anche la parte mia. E ce la riascolta le prossimine. Vai a tua. Ciao. Ci risentiamo tutte le prossime. Ciao. Ciao. Aspetta, fra che fungo un altro, va. Accendila ogni tanto, capito? No, è bello caldo adesso lo spengo e basta. E allora usa l'altro. Questo microfono sta andando bene, perché ogni tanto ci va tra, gli ho cambiato il filo anche tu. Ti ho sentito senza antenna, sì, benissimo fra. No, perché gli ho cambiato il filo, capito? Perché ogni tanto praticamente si interrompeva. usciva e non usciva, quindi ho dovuto cambiare, c'era un'interruzione sul filo, sulla spirale, e praticamente gliel'ho cambiato tutto. No, va bene, cavolo, via. Ora, ora, ora, così già un po' meglio là, sino in occhi. Tanto guarda che il segnale è buono, 9.25, 9.30, sì. Poco fa era a fondo scala. Poco fa eri 9.40. Cava cava. No, ma guarda, sto utilizzando pochissima potenza. Guarda un attimo. Guarda com'è adesso. Fai un passaggio. Sì, 9.30 quasi. Ora, guarda a vedere. Ora. 9.35 è qualcosa. Scappa. 9 è bisogno, basta così. Ma infatti. Conviene. E il segnale mio quant'è adesso? 1, 2, 3. 9.40 radio 5. Quindi va bene. Vabbè, io sto facendo voi fatti dalla radio, Sì, se no pure io ho abbassato. Se adesso abbasso, vedi. Ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vedi, sto abbassando. Adesso. Ola. All'incirca è così, mi è abbassato un po', però già va bene. Sì, già va bene, sto usando i batti scuri, capito? Chiaramente se posso, c'è la possibilità di aumentare ancora, ma lo lascio così, già va bene. Anzi, adesso lo abbasso un po', lo metto così e lo lascio così, va bene. Quando va il bambino 9.40 così, E quello fa la buappa. Quando avete bambino è chiaro che aumenta. Anche io sto accendo il bambino, sale. Solo ogni tanto l'accendo, capito? Non è sempre che l'attacco. Scappa. È che non andai più, sennò è stato meglio. E a tu? Cioè può andare di più, basta pigliare un 1000 e vedi come va. A voi scintille in occhio. Guarda, se lo vuoi te l'ho preso il giambo, Vogliamo andare di venga. C'è problema. Ce l'ho giù io, se lo vuoi te l'ho preso il frutto. C'è problema. Io non lo sto usando perché arrivano le bollette, sennò all'altro mondo. Ma che mi cudi, Sara? Arriverei in bolletta a quei più di 230 euro. Cosa di quando si può trattare, se l'attacco uno gli si mao mao. Ah, beh, certo che sì, ma non le va la candela, non c'è, cioè la cosa l'attacco, lo puoi attaccare così giusto per fare una prova ogni tanto, ma non è il caso in sasse. Gli so chi chieggia. Maravilla. Punto di cazzo, bolletta, cazzo. Vai, non si fanno quelle cose. E quello tira un bel di corrente, anche tu, capito? Un bel. Andiamo a rivenga. E pesa un bel culo. Si barra la mobile, raga. 230 euro di luce, ma non vai. Ma neanche ne uso io, pensa tu. Bah, già un anno fermo. Anche dove è trattato, Giulia, mamma di Durchi, non si è. Quando lo usavo arrivavano bollette all'altro mondo. Scappa. E ti arrivi. È un bel forte anche. Quello ci vuole l'antenna buona, me. Non ti puoi permettere di idratarci cappuzzi, no? C'hai quella mantova 5, c'hai quel capo grosso, il 213. Cioè avevo tutto un altro tipo di impianto da questo, un impianto che avevo fatto con Claudio, una cosa seria, capito? Ciao, ma a metà potenza già reggere un mattesse. Sì, quello sì. Però il capo buono, tu, il 213 non sbaglio, questi capi fini, guarda, non servono a niente. No, questo che io va bene. Da c'è il 213? No, l'H 155. E l'H 155 ce l'ho pure io, quello grigio. Io ho la versione nera. Io ho quello grigio. Ma secondo me dovrebbe reggere a confronto del RC58, dovrebbe reggere molto di più. No, lo so. Io a livello di cavo preferisco il 213. E che a livello d'antenna ho una mantova 5, quella che ho sempre utilizzato. Questa va bene come antenna, però non è a livello dell'altra, capito? Esce bene quello che vuoi, però mantova 5 non ce n'è. È il numero uno in assoluto per me. Vabbè, ma pure qui sarà una buffoneggia. Per essere come ci fosse un bene. È un attimino così, No, non è così, no. Boh. Cosa vuoi ti dica? Guarda, per il prezzo che è ci forte, ma forse davvero molto di più di certe antenne che costano il doppio e non serve ne a nulla. Guarda, ti posso dire che questa antenna c'è, cioè, radiali corti e sono molto robusti, quindi le cornacchie non ce la fanno a romperlo questo tipo di radiale, capito? C'ha tre radialini da 20 cm, è una 5 ottavi e va più che bene. Stazionaria non è nulla. Andava bene. Sì, quando non va ce la butto e ne piazzerò un'altra. Come ti risa di gambombe? Ma guarda, la Mantova 5, se non fosse stato che si è piegato il tubo, ve l'ho fatto una cazzata io, sarebbe stata ancora in piedi. Già lo so. Ma comunque non è male neanche quella. La verità, no, non c'è niente da dire. Vabbè, non c'ha, diciamo che non c'ha le stesse prestazioni della Mantova 5, però ho visto che c'ha una buona ricezione. Ma com'è fatta? Tutto di buono, secondo me. Cosa vuoi ti dica? Beh, vabbè, tu, io mi allontano, vado a prendere le sigarette, se ci sei entro dopo, ok? Kappa, non ti preoccupare, ok? Ci sei, ti faccio una chiamata, vado a prendere le sigarette, se ci sei dopo ti chiamo, ok? Ciao, a dopo, se ci sei, ciao. Ciao, ci sentiamo.